Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Scontro tra Bruxelles e Londra per la Brexit. L'Europa chiederebbe il versamento di 100 miliardi. Daremo solo quanto dovuto, replica la Gran Bretagna. Il New York Times attacca i 5 Stelle per le campagne contro i vaccini. Grillo replica, è una balla, chiedano scusa. Migranti, secondo la Guardia Costiera, le ONG non sono un fattore che spinge le partenze. La Marina chiarisce, nessun intralcio. Razzismo sugli spalti, il caso Montari tiene banco, nessuna sanzione per il Cagliari. Quello che è successo è esecrabile, dice Tavecchio. E per il calcio giocato è la serata della Juventus, bianconeri in campo contro il Monaco per la semifinale di Champions. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche come sempre la nostra diretta video su Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, e anche là, se volete, potete scriverci, commentare durante la diretta. In apertura ci occupiamo di Europa, perché ci sono da registrare le parole del commissario europeo, il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, e poi anche la replica di Londra. Iniziamo a sentire un passaggio di Barnier. Some have created the illusion that Brexit would have no material impact on our lives. Qualcuno ha voluto creare l'illusione, dice Barnier, lo avete sentito, che la Brexit non avrebbe avuto un impatto materiale sulle vite. Chi dice che non ci saranno conseguenze non dice la verità, occorre dipanare 43 anni di relazioni. Secondo alcune indiscrezioni, la Bruxelles avrebbe chiesto una cifra di 100 miliardi di euro per il divorzio dall'Unione Europea, ma la Gran Bretagna non ha alcuna intenzione di pagare un conto così salato, l'ha detto il ministro britannico per la Brexit David Davis. Barnier tra l'altro ha detto: non posso accettare la parola utilizzata di un assegno in bianco, non è questione di un assegno in bianco, noi chiediamo alla Gran Bretagna di saldare il conto. Su questo si dipana dunque lo scontro tra l'Europa e la Gran Bretagna, vedremo come si evolverà questo dibattito. Noi passiamo ad altro argomento e veniamo alla questione del New York Times e dei vaccini, l'attacco al Movimento 5 Stelle al quale Grillo replica. Populismo, politica e morbillo è il titolo di un editoriale del New York Times che punta il dito contro il Movimento 5 Stelle e ammonisce sul pericolo che in questi tempi di post-verità possano rappresentare le bugie, le teorie cospirative e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti. Tra gli esempi citati, l'opposizione ai vaccini, che ha portato ad una grave diffusione di morbillo. Secca la replica di Beppe Grillo, che parla di balla e respinge le accuse al mittente. Non esiste nessuna campagna del movimento, ricorda Grillo, contro i vaccini, né una piattaforma antivaccini, né sono stati mai ripetuti falsi legami tra vaccinazioni e autismo. Il danno più grande, continua Grillo, che posso aver fatto per il diffondersi delle malattie infettive è stato contagiare qualche bambino da piccolo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La giornata politica intanto si gioca tra le primarie e la legge elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La proposta del PD è un sistema elettorale tedesco proporzionale con collegi uninominali, soglia di sbarramento al 5%. Il Movimento 5 Stelle invece vuole solo alcune modifiche al legalitellum che armonizzi due sistemi di Camera e Senato. E i 5 Stelle accusano il PD di non avere una proposta vera e propria, ma solo la volontà di fare una legge contro di loro per non farli andare al governo. Forza Italia invece vuole il proporzionale. Posizioni distanti quelle delle principali forze politiche sulla legge elettorale che arriva oggi in Commissione Affari Costituzionali qui alla Camera. La novità di queste ore appunto era la proposta del Partito Democratico che abbandona il Mattarellum finora preferito da Matteo Renzi e l'apertura fino a questo momento dei 5 Stelle al dialogo, che invece hanno richiuso la porta. Oggi poi ci saranno i primi dati ufficiali delle primarie PD. Andrea Orlando Orlando continua a contestare i risultati. Per il ministro della giustizia lui sarebbe sopra il 20% e Renzi sotto il 70% delle preferenze, ma la sostanza non cambia. Michele Emiliano invece annuncia la nascita della sua corrente, ma c'è da registrare anche il no di Giuliano Pisapia a Matteo Renzi, respinge il corteggiamento per il listone. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Intanto l'Aula della Camera sta esaminando la legge, la nuova legge sulla legittima difesa. Sentiamo. La difesa è legittima se si reagisce a un'aggressione commessa di notte con l'introduzione di malviventi nel proprio domicilio avvenuta con violenza, minaccia o inganno. In sostanza una rapina notturna perpetrata in casa. In questo caso è legittimo anche l'uso delle armi per difendersi. È su questo emendamento, uscito dalla Commissione Giustizia, che si sarebbe trovato l'accordo tra PD e centristi dopo che questi ultimi avevano minacciato di non votare più il provvedimento. Se l'asticella dell'articolo 52 del Codice Penale non fosse stata spostata più in alto, ampliando dunque la non punibilità di chi reagisce ai ladri in casa con la possibilità di ricorrere all'uso delle armi da parte della vittima. Un testo, questo sulla legittima difesa, da sempre nel mirino con la destra, Lega, Forza Italia, oltre ai centristi di Alfano, che insistono per una formula più dura che escluda del tutto l'intervento del giudice su chi spara per difendersi. E un testo che divide anche il PD con Renzi, che chiede di tutelare di più chi si difende in casa, mentre Orlando e altri frenano. Per il guardasigilli il testo vigente andrebbe bene così com'è. La discussione a Montecitorio è in corso e il voto è previsto entro stasera. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E vedremo dunque come andrà questo voto, così come andremo ad ascoltare sempre dalle aule parlamentari l'audizione che ci sarà questo pomeriggio del procuratore di Catania. Il tema è sempre quello, le ONG e i salvataggi in mare. Continuano le audizioni in commissione. Questa mattina è stata anche la volta della Guardia Costiera e della Marina Militare. Sentiamo. La presenza delle navi delle organizzazioni non governative davanti alla Libia non rappresenta un fattore di attrazione per i trafficanti di esseri umani. Lo ha detto l'ammiraglio Nicola Carlone, capo ufficio operazioni della Guardia Costiera, che ha parlato oggi al Comitato Schengen. Gli sconfinamenti nelle acque territoriali libiche da parte di mezzi italiani, europei e delle ONG impegnati in operazioni di ricerca e soccorso, ha detto, sono stati 16 nel 2016 e sono stati tutti autorizzati dalle autorità libiche. La presenza delle ONG non comporta quello che viene detto un fattore di attrazione, ma spesso la presenza delle ONG non danno impulso alle partenze. Il fenomeno è governato esclusivamente a terra, secondo delle modalità prettamente decise dalle organizzazioni criminali. Del tema si è parlato anche in Commissione Difesa del Senato, dove ha parlato l'ammiraglio Donato Marzano, a capo della Marina Italiana. Le navi dell'ONG, ha detto, non hanno costituito intralcio per le operazioni del dispositivo Mare Sicuro. Grande attesa oggi alle 14 per l'audizione del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, da cui sono partite tutte le accuse nei confronti delle navi umanitarie. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il giorno dopo il commissariamento di Alitalia, il prestito ponte, si riflette su quale possa essere il futuro un po' più a medio-lungo termine per la ex compagnia di bandiera. In Focus Economia ieri abbiamo sentito Andrea Boitani, che insegna all'Università Cattolica di Milano. Sentiamo. Lì ci sono, diciamo, due possibilità. Cioè, c'è una parte di Alitalia, una piccola parte di Alitalia, che è capace forse di essere competitiva sul lungo raggio e per i voli ovviamente che collegano l'Italia con altre parti del mondo. Questa parte potrebbe interessare a una compagnia, diciamo un global carrier come Lufthansa, Air KLM, British, Iberia e naturalmente quelle internazionali, diciamo extracomunitarie, con tutti i vincoli che queste hanno, come è noto, a volare dalle città dell'Unione Europea. C'è poi un'altra parte dell'Italia che ahimè è quella più grande, con il maggior numero di aerei dedicati, che opera sul corto medio raggio, voli nazionali e voli diciamo continentali europei, e che se la deve vedere con le low cost. È probabile che questa parte potrebbe interessare a qualcuna delle compagnie low cost che sono più dotate di mezzi e di risorse, ovviamente però in questo caso trasformando quella parte lì di Alitalia in una subsidiary low cost di loro stesse. Intanto si guarda anche a quel che può succedere ai biglietti, all'operatività di Alitalia e a quello che riguarda più strettamente tutti noi utenti. Ora si può stare davvero tranquilli, almeno fino all'autunno. Chi ha un biglietto per un volo all'Italia riuscirà a viaggiare, perché nelle casse della compagnia finite in amministrazione straordinaria stanno arrivando 600 milioni in prestito ponte dallo Stato. Bastano per le necessità operative dei prossimi 6 mesi almeno, per cui ora i passeggeri che devono volare di qui a fine anno sanno di avere di fronte una compagnia come le altre, cioè in grado di fronteggiare i propri impegni, tra i quali garantire un'alternativa di viaggio se un volo dovesse essere soppresso. Non a caso, dai comunicati all'Italia, è sparita l'espressione «al momento» nelle frasi che rassicurano sulla regolarità degli orari. Tutto ciò non esclude qualche taglio, anche solo in alcuni giorni, soprattutto per i voli che si riempiono meno, come quelli di metà giornata, ma a quel punto la compagnia offre a chi è prenotato un posto in un altro giorno o un'altra ora. Chi non si fida e vuol rinunciare lo stesso al viaggio può ottenere il rimborso del biglietto, solo in quei rari casi in cui sceglie la tariffa piena, molto costosa. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Manca poco al secondo turno delle elezioni francesi, questa sera un confronto tra Le Pen e Macron considerato decisivo. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno, manca appunto veramente poco, gli ultimi sondaggi Sergio, abbiamo un problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripescarti in qualche altro modo. No, non ci riusciamo per il momento, allora andiamo a collegarci invece con il nostro Dario Ricci per parlare di calcio e poi ripeschiamo Sergio Nava. Stasera in campo la Juve. Dario Ricci, dunque, buongiorno. Buongiorno Simone, sulla strada verso Monte Carlo, noi come la Juventus guardando a Cardiff, sì, perché l'obiettivo finale dei bianconeri è proprio quello del 3 giugno al Millennium Stadium proprio di Cardiff, dove si disputerà la finalissima di questa Champions League, molto probabilmente a questo punto contro il Real Madrid del superstella mondiale Cristiano Ronaldo. Prima però bisogna superare l'ostacolo Monaco ed occhio a non sottovalutare i monegaschi di Jardim, tecnico nato in laboratorio perché non ha precedenti esperienze da calciatore, ma che il calcio lo conosce come. Basta vedere quello che hanno fatto e che stanno facendo i biancorossi in questa stagione, lanciati verso il titolo francese e appunto in semifinale di Champions con la squadra forse tra la più giovane del torneo, con un'intermedia di poco superiore ai 23 anni, molto bravo è stato Jardim a scoprire nuovi talenti su tutti, l'attaccante rivelazione dell'annata, Mbappé appena 18enne, e a rivitalizzarne altri, ed ecco allora il nome che viene in mente è quello del colombiano Falcao, grande bomber che si era perso tra scelte sbagliate e infortuni. Invece un Monaco decisamente pericoloso, per qualcuno sarà anche derby, perché basti pensare all'ex Granata, il capitano del Torino Glick, che ora è proprio tra le file del Monaco. Allegri ha già lanciato l'allarme per i suoi, non sottovalutare i monegaschi, ci vorranno due grandi partite, ritrova per l'occasione questa sera Marchisio al posto dello squalificato Khedira, e la prima di queste due grandi partite dovrà essere quella, proprio quella dello stadio Luigi II, poi il 9 maggio, la prossima settimana, il ritorno allo stadio di Torino. Per il momento è tutto, ma sarà una lunga giornata in cui vi racconteremo tutta la vigilia di Monaco-Juventus, certo, fino alla gara delle 20:45 allo stadio, certo, Luigi II. Certo. Per ora è davvero tutto, Simone. Sì, certo. Dario, grazie, e ovviamente continueremo a sentirti, come si diceva, nell'arco della giornata. Siamo in grado di tornare a collegarci con Sergio Nava per fare un punto sul dibattito di questa sera tra Le Pen e Macron. Sergio, eccoci. Sì, dicevamo che secondo gli ultimi sondaggi Emmanuel Macron avrebbe il 60% dei consensi contro il 40% di Marine Le Pen. Questo è l'ultimo sondaggio Opinion Way, che poco si discosta dal 59 al 41 di ieri. Dicevamo giornata decisiva, duello televisivo stasera in prime time su TF1 e France 2 tra Macron e la Le Pen, probabilmente sarà decisivo anche per spostare gli ultimi voti, soprattutto quelli degli indecisi. Europa, immigrazione, economia, identità francesi, probabili temi al centro di questo confronto, e appunto dicevamo degli indecisi, circa un elettore su quattro è tentato di non recarsi ai seggi domenica, le stime sono tra il 22% e il 28%, teniamo anche conto che la quarta forza, quella di Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ha deciso di astenersi, anche se in realtà un terzo degli elettori che hanno partecipato alla consultazione online hanno detto che voterebbero Macron. Quindi un bacino importante dove pescare e da, diciamo, attirare stasera. Oggi François Hollande, presidente uscente, ha chiesto durante il Consiglio dei Ministri a mobilizzarsi per difendere l'idea che abbiamo della Repubblica, un chiaro riferimento insomma a non votare per Marine Le Pen. Vedremo cosa accadrà, per il momento tutto. E ti ringrazio, grazie al nostro Sergio Nava per questo aggiornamento sul dibattito che si svolgerà questa sera. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Qualcuno ci scrive da là che ci ascolta dalla Patagonia, un'altra persona, non so se la parte cilena o argentina, del resto c'è un'altra persona che ci dice che ci si ascolta dall'Argentina. Argentina, fantastico ragazzi, fantastico. Scriveteci anche sulla nostra pagina Facebook. Andiamo a sentire il traffico, poi si diceva iniziamo il nostro giro per l'Italia. Molti i luoghi che toccheremo Monopoli, dove un uomo di 77 anni è morto a quanto pare per una specie di bravata, due ragazzini che l'hanno spinto giù da una scogliera, forse per scherzo. E poi andremo a Milano per il blitz che c'è stato ieri nella stazione centrale e poi, beh, ormai lo facciamo ogni giorno, sulle tracce di Igor alias Norbert, che continua a non trovarsi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello scontro tra Bruxelles e Londra, dello scontro tra il New York Times e il Movimento 5 Stelle sui vaccini, della vicenda migranti ONG, di calcio con la partita appunto che ci sarà questa sera tra la Juve e il Monaco, delle elezioni in Francia. Stasera il confronto tra Le Pen e Macron e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, mentre sulla nostra pagina Facebook qualcuno ci saluta addirittura dall'Australia. Ragazzi, ma siete meravigliosi, meravigliosi. Iniziamo però da una brutta storia, la brutta storia che arriva da Monopoli in Puglia, una brutta storia, potrebbe essere una bravata, forse una sorta di scherzo, forse un litigio morale. Due ragazzini spingono una persona di 77 anni giù da una scogliera e muore. Si indaga per omicidio preterintenzionale contro ignoti, dunque non è stato un incidente né una rapina, ma molto probabilmente una bravata di un gruppo di ragazzini a causare la tragica fine del 77enne Giuseppe Di Bello, morto ieri pomeriggio a Monopoli, a Cala Verde Giglio, dopo un volo di 2 metri dalla scogliera fino in mare. È questa l'ipotesi investigativa più accreditata dai carabinieri, coordinati dal PM del Tribunale di Bari, Grazie Errede, confortata dalla testimonianza dell'altro anziano precipitato dagli scogli e salvo per miracolo. Stando a quanto raccontato dall'uomo, tuttora in stato di shock, e confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due sarebbero stati seguiti dai ragazzini che avevano incontrato in un bar, sarebbero poi stati aggrediti durante un diverbio e spintonati sugli scogli. Due diciassettenni sono stati interrogati per tutta la notte dai carabinieri. Particolari maggiori arriveranno anche dall'autopsia sul corpo di Di Bello per capire se sia morto per le ferite al capo o per annegamento. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. E questo è il quadro che arriva da Monopoli, ma sì, vogliamo bene anche a quelli che ci ascoltano dalla Brianza. Ci chiede un ascoltatore che quanto è costata fino ad ora la caccia ad Igor. L'altro giorno c'era Libero che scriveva che ci costa 200.000 euro al giorno. Però in qualche modo quest'uomo bisogna trovarlo. Daniele Predieri della Nuova Ferrara, ormai voce consueta per raccontare questa vicenda ai nostri microfoni. Daniele, eccoci. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, leggiamo sui quotidiani che addirittura ci sono cartomanti e medium che si propongono di trovarlo. Insomma, in realtà c'è tutto il lavoro della polizia, delle forze dell'ordine che prosegue sul territorio. Ultime tracce? Sì, assolutamente, il lavoro continua. Siamo al 25esimo giorno di ricerche dall'8 aprile, quando questo Norbert Fair, Igor Vaclavic, si è ficcato proprio dentro questa zona rossa. E le segnalazioni sono diverse, molteplici, molte sono molto importanti, accreditate, noi abbiamo già scritto nei giorni scorsi, quella di un pakistano che se l'è visto sbucare la mattina presto alle 7, diciamo, da questa boscaglia, che avrebbe tentato di prendergli la bicicletta, poi dopo lui per fortuna è riuscito a scappare, oppure anche la caccia notturna, I cacciatori dei reparti speciali l'avrebbero intravisto con i visori notturni, però il blitz che è seguito, diciamo, non ha portato a nulla. Le ricerche continuano e credo che francamente, anche se i colleghi li fanno, i numeri siano un po' strampalati. Non è possibile, perché al momento non è possibile, diciamo, quantificare una spesa importantissima, ovviamente. Ma certo. Sì, sì, sì, qua ci dicono, ci dice qualche ascoltatore, ancora la storia del ragazzo pakistano, perché in realtà è una storia che abbiamo già raccontato ieri. E fatto sta che si continua a ritenere che sia in quella zona di terra, per così dire, no? L'uomo, forse protetto, sì, da qualcuno, non si sa. Non si sa, non si sa, ecco, ovviamente. Ci sono state anche delle segnalazioni la serata del 1° maggio che ha fatto scattare un altro blitz del Tuscania. E stamattina, proprio quella della notizia di stamattina, è che ci sono all'opera i reparti della Polizia di Stato con i reparti speciali degli UOPI e del reparto prevenzione crimine di Bologna, sempre nella stessa zona che è in poche parole vicino all'avvistamento del pakistano, che si chiama via Morgone, via Spina. E sono ricerche che continuano e si passano il testimone, ovviamente, le forze di polizia, i carabinieri. È un impegno ovviamente importante, però al momento non c'è ancora esito di Igor Norbert. Daniele, possiamo tornare a chiamarti nei prossimi giorni, sì? Assolutamente, sperando di sperando a un certo punto di dar la notizia della cattura di quest'uomo. Va bene. Grazie a Daniele Predieri della Nuova Ferrara, trovate le sue cronache anche ovviamente sul sito e sul quotidiano, e noi ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia a Milano, perché sta facendo in parte discutere anche la giunta di Milano il blitz che è stato effettuato ieri dalla questura nella stazione centrale. Molti uomini delle forze dell'ordine là, elicottero che volava sopra, Salvini che è corso là e ha fatto una diretta Facebook dalla stazione centrale dove si stavano effettuando tutta una serie di controlli. Sono decine le persone controllate, prevalentemente stranieri, in realtà poi tutti sostanzialmente lasciati libera. Abbiamo in linea Carmela Rozza, che è assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Ho visto che non è piaciuto al suo collega di giunta Maiorino questo blitz. Ma guardi, onestamente le dico, credo che ci sia stato un problema di condivisione. Nel senso che da tempo che come giunta e come amministrazione chiediamo che ci siano da parte delle forze dell'ordine controlli sulle persone che sostano davanti alla stazione centrale. Il dato vero era se bisognava fare un'operazione spettacolare o se bisogna fare un controllo costante e continuo sulle presenze di stazione centrale. Noi abbiamo sempre chiesto controlli costanti e continui. Sì. Cioè, perché meglio controlli costanti e continui, dice lei, che certo, blitz come quello che c'è stato, anche, no, nella giornata di ieri. Non è che possiamo mobilitare centinaia di forze dell'ordine ogni giorno in stazione, sì, centrale. Sì, 300 uomini erano ieri. Questo lo ha preso dalle cronache. Sì. E quindi noi abbiamo chiesto da tempo, io tra l'altro abbiamo messo anche dato da disponibilità di pattuglie miste con la polizia locale, cioè a gruppetti e pattuglie, magari tante, che chiedono a tutte le persone che sostano i documenti. Poi chi non ha documenti, non sappiamo chi è, giusto che venga portato in questura per l'identificazione. Quindi nessuna contrarietà da parte di nessuno della giunta sui controlli. Allora, come dire, dal punto di vista dei controlli, come si diceva, i risultati non sono stati un granché, se non un modo di segnalare, per così dire, anche la presenza dello Stato. Lo ricordiamo che nei giorni scorsi è proprio alla stazione di Milano, in un sottopasso, c'è stata una rissa molto violenta nella quale sono stati coinvolte non solo le persone che partecipavano alla rissa, ma anche persone esterne che hanno subito danni, violenze, è stato anche rubato un portafoglio. Nel blitz di ieri, come si diceva, scusi se la interrompo. Guardi, la polizia locale di Milano in stazione centrale fissa H24 con due pattuglie e spesso siamo i primi a intervenire, a trovarci coinvolti. Questo è il dato, per evitare che avvengano questi episodi serve proprio presidio costante e continuo. Sì, costante e continuo. Come si diceva appunto, le dicevo poi anche per riassumere agli ascoltatori, il risultato di questo blitz è stato questo, e tra le altre cose, insomma, si sottolineava, se vogliamo, sorridendo anche in redazione, alla fine in realtà nessun arresto, nessun fermo, e l'unico risultato è che quattro tra senegalesi e gambiani, che grazie a queste verifiche hanno scoperto di aver ottenuto lo status di rifugiato dopo alcuni mesi, quindi sostanzialmente la polizia è andata là, gli ha detto: guardate, abbiamo verificato, avete ottenuto lo status di rifugiato, e loro ovviamente tutti contenti. Avete parlato con questore e siete riusciti a capire se si riesce ad avere appunto questo controllo costante, che è, come si diceva giustamente, il grande tema, perché poi a volte soprattutto in certi orari del giorno certo. è un po' complesso del giorno e anche della sera, perché, ripeto, la notte in stazione centrale ci sta la polizia locale. Punto. Abbiamo chiesto, oggi abbiamo fatto un primo incontro, un tavolo dell'ordine della sicurezza pubblica, da parte mia è stata chiesta al questore continuità dei servizi di controllo con meno spettacolarizzazione possibile, perché il controllo, anzi, come dire, spesso noi con i controlli, quando arriva, ieri forse se c'era qualche delinquente è scappato all'arrivo delle forze di polizia. Sì. E sono rimasti quelli che pensavano di non avere niente da temere, infatti non avevano infatti niente a tutti temere. Gli effetti non avevano niente da temere. Quindi forse invece un lavoro più costante, silenzioso, e magari meno evidente, ci avrebbe portato a beccare i veri delinquenti che non devono stare. Leggo un filo di polemica con questa operazione, assessore. Ma guardi, io appartengo a una categoria di politici che si è sempre battuta per la sicurezza, e anche quando a casa mia si pensava che la sicurezza non fosse un problema di destra, sosteneva che era un problema della sinistra. Ma per me la sicurezza si fa in silenzio, col lavoro costante e quotidiano, dei sacrifici che fanno tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. La spettacolarizzazione se ogni tanto serve, ma non sicuramente stazione centrale. La ringrazio, grazie a Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, per essere stata con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, mentre siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, e qualcuno ci scrive, ormai è partita questa cosa, qualcuno ci scrive addirittura che ci ascolta in pausa pranzo al Sudafrica. Niente male, niente male anche questa. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo e toccheremo due temi calcistici. Uno è un po' più serio, che è la vicenda di Muntari, che ha deciso di lasciare il campo durante Cagliari-Pescara mentre era insultato da alcuni tifosi del Cagliari per il colore della sua pelle. Si vede proprio la scena di lui che si avvicina al quarto uomo e dice, si tocca il braccio e dice: questo è il colore della mia pelle. A un certo punto viene ammonito e decide di lasciare il campo. L'ONU dice, l'Alto Commissariato per i Diritti Umani dice: bellissimo gesto. Lui però si becca un giorno di squalifica, come prevede il regolamento, e alla tifoseria del Cagliari non succede assolutamente nulla. L'altro caso calcistico che sta spaccando Roma è questa scritta sulla maglia della Roma: SPQR. Protesta la Lazio, protesta, arrivano delle mozioni in Campidoglio per chiedere dei chiarimenti, perché questo marchio SPQR, che è un marchio che, come dire, a Roma c'ha qualche centinaio d'anni, di chi è? Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: lo scontro tra Bruxelles e Londra per la Brexit, l'Europa chiederebbe il versamento di 100 miliardi, anche se la cifra per il momento è solo un'indiscrezione, daremo solo quanto dovuto, replica la Gran Bretagna. Il New York Times attacca i 5 Stelle per le campagne contro i vaccini, la replica di Grillo è molto dura, è una balla, chiedano scusa. Migranti, secondo la Guardia Costiera, le ONG non sono un fattore che spinge le partenze. La Marina chiarisce, nessun intralcio dalle navi, appunto, delle organizzazioni non governative, c'è attesa per l'audizione del procuratore di Catania, che sarà questo pomeriggio alle 14. Razzismo sugli spalti, il caso Muntari tiene banco, nessuna sanzione per il Cagliari, quel che è successo è esecrabile, dice Tavecchio. E per il calcio giocato è la serata della Juventus, bianconeri in campo contro il Monaco per la semifinale di Champions. La Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, ma sì, ovviamente vogliamo bene anche a voi che ci ascoltate da Mantova, da Prato, da Firenze e ci state scrivendo, però insomma capirete che se, quando senti che c'è qualcuno che ti ascolta dall'Argentina, dal Sudafrica o dall'Australia, comunque evidentemente fa un certo effetto. Ci scrive Davide, sempre sulla nostra pagina Facebook, dalla quale continuiamo ad essere in diretta, che su Alfa Centauri la ricezione non è il top. Avviseremo i nostri tecnici e cercheremo di risolvere il problema. Veniamo ad un argomento che ha a che fare con il calcio e sicuramente se ne parlerà tra poco anche in tutti i convocati. È la vicenda di Muntari. Domenica, durante la partita Cagliari-Pescara, Muntari, per chi non lo sapesse, è un calciatore del Ghana, è un calciatore di colore che è stato insultato con dei cori razzisti, probabilmente da poche persone. È sempre una ristretta minoranza tendenzialmente che fa queste cose. Si rivolge al quarto uomo. La scena vi consiglio di andarla a vedere su internet perché colpisce molto. C'è lui che si tocca il braccio più volte e dice: questo è il colore della mia pelle. In questi casi l'arbitro teoricamente dovrebbe anche interrompere la partita. Dopodiché si rivolge all'arbitro, viene ammonito, non ce la fa più e lascia il campo sostanzialmente a fronte appunto di questi insulti razzisti. Succede che ieri arriva la decisione del giudice sportivo, come da regolamento, dato che ha lasciato il campo viene squalificato per una giornata, e poi però che succede? Succede che alla curva del Cagliari non viene imposta nessuna sanzione. Siamo in linea con Mauro Valeri, che è a capo dell'osservatorio, un sociologo delle relazioni etniche, a capo dell'osservatorio sul razzismo nel calcio. Valeri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Tra l'altro non è un bel segnale, anche perché abbiamo una dichiarazione che arriva addirittura dalle Nazioni Unite, che dice: quello dei Muntari è un bel gesto. No, sicuramente è un gesto importante. Purtroppo, diciamo che ogni volta che si riesce a parlare un po' più di razzismo bisogna aspettare il gesto eclatante, e questo non è mai un buon segno. Ricordo che nella stessa giornata di campionato sono state multate l'Inter e la Lazio per discriminazione razziale. Quindi diciamo c'è un problema che sta iniziando a essere un po' preoccupante. Fino adesso non c'erano stati episodi particolarmente significativi in Serie A. Il fatto che nella stessa giornata ci siano tre episodi, di cui due puniti e uno, poi sarebbe da discutere, non punito, vuol dire che qualcosa, insomma, bisogna iniziare un po' a ripreoccuparsi di un fenomeno che almeno nelle serie professionistiche era un po' in calo. Voi che cosa avete registrato? Cosa ci dicono i dati, Valeri? Per quelli che si possono registrare, naturalmente, che è possibile registrare. Allora, diciamo che c'è un problema generale, questo secondo me è un po' alla fonte. Da un po' di anni a questa parte la Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di fare un po' una vivisezione dell'insulto razzista, per cui ogni volta va valutata il numero di persone che insultano, se la percezione è reale, la durata e la sistematicità. Queste sono le regole, e questo crea secondo me abbastanza confusione, perché è lasciato veramente poi a una discrezionalità molto alta il fatto che, come nel caso di Muntari, viene scritto che sono solo 10 spettatori, sostenitori a insultarlo, meno dell'1% gli occupanti del settore. Ora, secondo me è una visione molto limitata e un po' troppo ragionieristica del razzismo, anche perché se veramente sono 10 sostenitori non si capisce perché non sono stati fermati, visto che sono stati individuati, e questo è un problema enorme sulla responsabilità soggettiva che nel calcio sembra non valere. Sì, lei dice giustamente, se sono 10 vuol dire che sai chi sono, e esatto, se sai chi sono li devi fermare perché si sono resi protagonisti di tutto questo, no? Questo è il concetto. Assolutamente sì. Quello che è successo con Muntari, già stato, diciamo, come dire, vittima durante la famosa partita Milan Pro Patria, no? Che anche lì con Boateng abbandonato c'era anche Muntari, quindi penso che lui abbia ripetuto un gesto che all'epoca ha fatto scalpore e aveva un po' risollevato la discussione. In questo caso mi sembra che non siamo a questo livello, purtroppo. Sarebbe bello, ci scrive un ascoltatore, vedere tutta la squadra lasciare il campo. Invece risparmio, e guardate, ve lo dico, è inutile che ci scrivete gli sms, degli sms razzisti. Gente che ci scrive: il vero razzista è il negro. Ma come, ma come si permette e che cosa vuol dire? Ma di che stiamo parlando? Davvero sarebbe bello vedere veramente lasciare, che entrambe le squadre lasciassero il campo. La ringrazio, grazie a Mauro Valeri. Ah, mi scusi, però non mi ha dato un numero, eh. Quanti episodi avete registrato? Allora, il problema quest'anno non sono in Serie A, praticamente questi sono i primi tre. Devo segnalare che ci sono stati altri episodi resi non punibili, considerati anche quelli, c'è stato il Roma-Lazio contro Rudiger e Lulacu, quindi le rispettive tifoserie, l'arbitro, il giudice sportivo anche lì della partita del 7 aprile non ha punito, non ha stato punito neanche altri insulti nella Coppa Italia il 2 marzo, quindi diciamo che c'è un numero elevato di episodi, stiamo parlando di una quindicina di episodi. Il problema è che di questi puniti sono pochissimi, cioè questi sono i primi due puniti, quello dell'Inter e quello della Lazio della domenica scorsa. Mentre c'è, devo dirlo velocissimamente, però c'è un problema che sta crescendo e noi sono ormai due anni che lo segnaliamo sui dilettanti e soprattutto nei campionati giovanili dove invece il razzismo è molto più pesante e molto meno visibile e quindi molto più preoccupante secondo me. La ringrazio, grazie a Mauro Valeri, sociologo, come si dice, delle relazioni etniche e direttore dell'osservatorio sul razzismo nel calcio. Non guardi, e lo dico all'ascoltatore che ci scrive, non è colpa del nostro perbenismo. Se viene insultata una persona solamente per il colore della pelle è giusto che si prendano dei provvedimenti, almeno questa è la mia visione, poi vedetela come volete voi. Restiamo sul calcio in qualche modo. Alessandro Onorato, consigliere di Roma Capitale della lista Marchini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Abbiamo pochi minuti per questo acronimo che è apparso sulle maglie della Roma e che esiste da centinaia, in realtà migliaia di anni, Senatus Populusque Romanus, ossia SPQR, e che ha fatto un po' imbestialire qualcuno, soprattutto dalle parti della Lazio, perché si è detto: ma com'è possibile che la Roma si appropri di questo acronimo, che è un acronimo che fa parte della storia della città? Le squadre di Roma sono due e lei, Onorato, su questo ha presentato un'interrogazione, ho capito bene? Ma sì, ho presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere se era stato in qualche modo richiesto un'autorizzazione a Roma Capitale per questo utilizzo. E dovremmo ricordare a tutti che è un utilizzo a fini commerciali, cioè qui in discussione non ci sono né i simboli della Roma né tantomeno quella della Lazio. Parliamo di un derby che è stato trasmesso in mondovisione in 63 paesi a mezzogiorno e 30 ora italiana, con un perfetto fuso orario, per esempio su tutti i mercati orientali, dove la Roma ha trovato, secondo me anche in maniera molto furba e intelligente, uno stratagemma per far sembrare all'estero che l'unica squadra della capitale è appunto la Roma Calcio, o che comunque sia che quel simbolo, che è un simbolo millenario dalla potenza planetaria, no? Perché in qualunque libro di storia in tutto il mondo è studiato, l'effigie naturalmente degli antichi romani e quant'altro, insomma è una tattica molto intelligente, molto furba per valorizzare evidentemente il brand della Roma. A quel punto io credo che si parte dal tema delle squadre di calcio, ma si arriva ad una serie di temi di utilizzo e monetizzazione di quelli che sono i simboli di Roma Capitale. Sì, cioè lei dice in sostanza, se la Roma lo vuole usare, paghi, e paghi il comune gentilmente. Quindi paghi i cittadini romani. Però Onorato, ci viene segnalazione. Abbiamo chiesto un'intervista anche all'assessore allo sport del comune di Roma, il quale ci ha detto: guardi, che il problema è quando SPQR è all'interno di uno scudo. Altrimenti si può utilizzare un po' come, si vuole. Però questa è la dimostrazione del livello molto basso di chi ci amministra. Le faccio un esempio pratico. New York Police Department, che è l'acronimo che è scritto su ogni macchina della polizia di New York, è uno dei simboli più commercializzati nel mondo, e comunque sia, se noi andiamo a New York troviamo dei negozi ad hoc che vendono gadget quant'altro, e se lei ha idea di quanto ci guadagna la città di New York? Guadagna cifre blu, cioè cifre importantissime. Ce l'ha una cifra? Guardi, le dico la verità, lo sto cercando, però le posso dire che ho trovato un retail di distribuzione di negozi di oltre 100 negozi nella città di New York, ma soprattutto ogni materiale di merchandising che riporta alla dicitura del comune di New York, che naturalmente ha una storia molto piccola rispetto a Roma, è una delle voci più importanti di marketing che la città di New York incassa. Cioè, quindi lei dice, quale... Onorato, non è un problema di chi se lo mette sulla maglia, no, questo marchio, è semplicemente una questione che al comune entrino i soldi. Ma lei, noi abbiamo Roma tappezzata di negozi, di souvenir, di commercio falsa. Il comune di Roma dovrebbe prendere la palla al balzo per dire, ci mancherebbe altro, la Roma alla Lupa, la Lazio all'Aquila. SPQR può essere utilizzato, secondo me, sia dalla Roma che dalla Lazio, perché sì, è nell'effigie degli antichi romani. Sì, ho capito, mi è chiarissimo. Signori, è giunta l'ora che questa città, con quei soldi, con i soldi della valorizzazione della nostra storia, insomma, magari potremmo incominciare a rifare qualche strada, qualche marciapiede, certo, e renderla dignitosa. Onorato, no? Onorato, è chiarissimo. Ultima domanda, lei è laziale o romanista? Io sono laziale e al netto di questo le aggiungo un dato. Siccome alcuni hanno detto, no, ma lei lo dice perché è laziale. No, infatti a me il tema di Lotito non interessa, nel senso, questo è, come dire, dura l'ex sed l'ex. Cioè, vale per tutti. Vale per tutti. Le dirò di più. Lei lo sa, Onorato, che a questo punto, dopo questa sua dichiarazione, comunque non la prenda, i romanisti non la prenderanno sul serio. Io la ringrazio, devo veramente chiudere, c'è il traffico. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.